Allora, benvenuti, buonasera, siamo in diretta dalla Camera del Lavoro di Napoli, dalla CGIL, da Via Torino, le ragioni del sì, le ragioni del no per quanto riguarda il referendum costituzionale. Il 4 si vota e noi siamo parte di quel grande mondo che è schierato col forse, o meglio col non sappiamo. Senza se e senza ma non ci appartiene, perché siamo persone dubbiose in generale. E per questo abbiamo chiesto a due che addirittura fanno i parlamentari, quindi sono quelli importanti, di spiegarci un po' meglio che cosa accade, perché nella concitata discussione che attraversa i media, in particolar modo i social network, ma anche la televisione, diciamoci la verità, si riesce a capire fino a un certo punto che cosa accade. Allora, incominciamo a presentare i nostri ospiti. I nostri ospiti sono Arturo Scotto, che ci rappresenterà le posizioni del no. Arturo Scotto è un giovane parlamentare, sei giovane Arturo, moderatamente, è un altrettanto giovane parlamentare che è il nostro Leonardo Impegno, che è un po' meno giovane di Scotto, ma sempre giovane, e entrambi di sinistra. Ecco, questo è un primo dato, cioè è la sinistra che si spacca attorno al tema sì o no. D'altra parte è un governo di sinistra quello che fa questa riforma, e peraltro era un governo di sinistra quello che aveva fatto la scorsa riforma della Costituzione, quella del titolo quinto. Peraltro Leonardo Impegno in questo palazzo ha mosso i primi passi da politico in erba, si può dire. Leonardo, non ti offendi. Arturo era troppo piccolo all'epoca, però pure lui, come dire, frequentava. Allora, cominciamo a partire con una domanda. Io farò una domanda che riguarda il tema e chiederò ai nostri due ospiti di rispondere, cercando di rimanere all'interno dei 3-4 minuti, cercate di spiegarci, ricordandovi che noi non siamo i presidenti della Camera, per cui non ci pagano per starvi a sentire, a un certo punto ci distraiamo, quindi non ci fate distrarre. Partiamo da un presupposto. Allora, Arturo, comincerei da te rispetto a un punto, ma senza se e senza ma, è una tragedia greca se la Costituzione viene modificata? Non l'ho mai pensato. Al contrario, io penso che sia stata persa un'occasione di costruire insieme una riscrittura delle regole del gioco in un clima positivo, dopo un dato gigantesco che ha fatto eruzione nel 2013 sulla scena politica, che è stata la tripolarizzazione del quadro elettorale, con l'irruzione sulla scena del Movimento 5 Stelle. Abbiamo messo un piede nella seconda repubblica, o nella terza se vogliamo, ma abbiamo ripercorso invece i vizi antichi della prima nella costruzione di questo disegno elettorale, di questo disegno costituzionale. Il disegno costituzionale è sbagliato per due motivi. Il primo riguarda l'incapacità da parte di Matteo Renzi di provare a scrivere le regole del gioco insieme agli altri e fermarsi nel caso questo non fosse possibile. Nella Carta dei Valori del Partito Democratico è scritta una cosa molto semplice, la cito: la Costituzione non è alla mercé della maggioranza del momento e resta la fonte di legittimazione e di limitazione di tutti i poteri. Il Partito Democratico si impegna perciò a ristabilire la supremazia della Costituzione, a difenderne la stabilità e mettere fine alla stagione delle riforme della Costituzione imposte a colpi di maggioranza. Questa Costituzione, questa riforma di 47 articoli è stata approvata con il 55% dei voti al Senato e il 56% dei voti alla Camera. Ed è stato fatto attraverso un'imposizione di tempi, di modalità e addirittura con una violenza istituzionale mai vista neanche nella fase di Silvio Berlusconi. Sedute fiume, canguri, super canguri, sostituzione dei membri in commissione, un contesto, diciamo, come dire, difficilmente agibile per le minoranze, dentro un quadro in cui questo Parlamento era stato come dire, considerato non illegittimo, perché la sentenza della Corte Costituzionale garantiva la continuità istituzionale, ma indubbiamente eletto con una legge elettorale incostituzionale e dunque, come dire, destinato a occuparsi di poche cose e soprattutto quando si maneggia una materia così delicata come la riforma costituzionale, evidentemente, diciamo, sulla base di un impianto di concordia. Secondo, è sbagliata nel merito, e chiudo, poi penso che ci sarà modo di affrontare le altre questioni di ovviamente, merito. Ovviamente. Di merito. Si passa da un bicameralismo paritario a un bicameralismo confuso, dove i processi legislativi si moltiplicano e dove il rischio di passare da una paralisi politica a una paralisi giuridica è molto forte. Dopo magari scenderemo sul perché. Secondo, nei fatti c'è un caso, almeno in Costituzione, che lo dimostra: si modifica l'impianto della forma di governo e l'equilibrio tra i poteri garantiti dalla Costituzione, potere esecutivo, legislativo e giudiziario. Il voto ha dato certa modifica l'impianto della separazione di poteri. Terzo, si passa da una situazione in cui il titolo quinto, come diceva giustamente Lanfranco, io sottoscrivo, andava modificato perché indubbiamente aveva prodotto una condizione di confusione, molto spesso di contenziosi aperti, anche se nell'ultimo periodo meno, una legislazione concorrente che non funzionava, a una situazione in cui c'è una ricentralizzazione fortissima che mette in discussione il principio dell'articolo 5 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce le autonomie, e in più uno strumento nelle mani del governo che si chiama clausola di supremazia, che rischia di produrre una distorsione autoritaria nel rapporto tra Stato ed enti locali. Allora, impegno. Mi sembra che la posizione di Scott del no sia chiara, dice due o tre cose fondamentalmente, però noi temiamo per il carattere democratico della nostra Repubblica nel caso passasse il sì. Tu non ne sei convinto, ovviamente. Ma no, per niente. Innanzitutto lasciami ringraziare la segretaria che mi ha invitato, quindi Fiorella, che mi ha dato proprio la possibilità di confrontarmi oggi con Arturo, di vedere te, mi consentirete di ringraziare solo Antonio De Falco, che non vedevo da tanto tempo, che mi ha appunto iniziato lui insieme a tanti altri a frequentare questo palazzo, quindi io in qualche modo mi sento di casa qui, non solo essendo di sinistra, ma perché molti di voi mi hanno insegnato a fare qualcosina. Poi ovviamente si possono avere qualcosina di quelle che sbaglio fondamentalmente, che probabilmente insegnato qui. Su alcune vicende che ha toccato Arturo. Vabbè, allora lasciatemi entrare subito nel merito. Io penso che non si tratta di nessun attentato alla democrazia, nessuna deriva autoritaria. Stiamo parlando di un radicale cambiamento della seconda parte della Costituzione, quindi non della prima, di quella che comunemente viene detta organizzativa. Anche perché ci dobbiamo porre una domanda: perché tutta la politica italiana, da destra a sinistra, da circa 40 anni a questa parte, ha sempre detto che bisognava superare il bicameralismo perfetto e paritario, perché è un unicum, cioè siamo l'unico paese al mondo che ha il bicameralismo perfetto e paritario. Infatti Arturo ha citato un documento, ci sono molti documenti di sede dove dicono superiamo il bicameralismo perfetto e paritario. L'obiezione è come? E probabilmente su questo ci sono divergenze. Allora io dico una cosa in termini esplicativi. La grande differenza rispetto al bicameralismo perfetto e paritario è che mentre oggi la fiducia al governo la danno sia la Camera che il Senato, con la riforma la fiducia al governo la darà solo la Camera dei Deputati, che sarà l'unica Camera politica, mentre il Senato avrà una funzione di rappresentanza sostanzialmente delle autonomie locali e quindi avrà meno poteri e avrà meno competenze e meno funzioni. Ora, perché diciamo alla fine è necessario superare il bicameralismo perfetto del nostro paritario del nostro paese? E perché a mio giudizio questa riforma è una riforma positiva. Da un lato noi impieghiamo, tabella alla mano, circa 504 giorni per approvare una legge del nostro paese ed è un tempo effettivamente immenso rispetto alla celerità della decisione che richiedono le democrazie moderne e mature. Ma c'è un altro elemento che io contesto profondamente alla riflessione che prima faceva Arturo. Noi introduciamo il voto a data certa. Cosa significa? Significa che il governo ha la possibilità di dire al Parlamento: guarda, entro 70 io ti chiedo di approvare questa legge entro 70 giorni. Se tu non la approvi entro 70 giorni, decido io. Io non vorrei dare una notizia, perché dico che questo è un passo in avanti rispetto all'autonomia e alla credibilità del Parlamento e non un passo indietro, e si dà maggiore centralità al Parlamento. Perché non vorrei dare una notizia, forse su questo Arturo è d'accordo con me, al di là delle posizioni sì e no. Nel nostro paese il Parlamento non conta molto. Conta molto, molto, molto, molto poco. E conta molto di più il governo, perché il governo utilizza altri strumenti per poter decidere, in modo particolare i decreti legge, i decreti d'urgenza, di straordinaria d'urgenza. E noi qui in questa sede, a quante battaglie abbiamo fatto perché i governi abusavano della decretazione d'urgenza? Ne abbiamo fatte tantissime, perché dicevamo il governo abusa della decretazione d'urgenza e svuota il Parlamento, che è il luogo nel quale il popolo manifesta la sua opinione attraverso il concetto di rappresentanza. E ne abbiamo fatto negli anni, non solo li ha fatti Renzi, i decreti legge, decreti d'urgenza, ma li ha fatti Berlusconi, li ha fatti Monti, li ha fatti Prodi, li hanno fatti tutti. Tutti i governi hanno utilizzato il decreto d'urgenza, cioè il governo fa la legge, non la fa il Parlamento. Il decreto a data certa perché non stravolge alcuno, anzi dà uno strumento in più al Parlamento? Perché mentre il decreto legge è subito, immediatamente legge, il voto a data certa non è immediatamente legge. E diventa legge se il Parlamento appunto vota la legge stessa, ed è un cambiamento radicale. Ora Arturo parla, e mettiamola un po' più in politica, di un'occasione mancata. Sono 40 anni che sprechiamo occasioni. Non è vero che solo questa è un'occasione mancata, sono 40 anni. Sono 40 anni che provano a fare un accordo per cambiare questa seconda parte della Costituzione. Ci ha provato sinceramente con il cuore De Vita e non ci è riuscito. Ci ha provato sinceramente Villeotti e non ci è riuscito. Ci ha provato persino D'Alema facendo il patto della prostrata con Berlusconi, perché giustamente bisogna... E fortunatamente non ci è riuscito. E non ci è riuscito nemmeno D'Alema. Leonardo, scusami un attimo, siamo nei minuti... Allora, chiudo il periodo. Chiudi perché non siamo... ci sono riusciti, perché ovviamente è difficile cambiare la Costituzione, 2 anni di lavoro, 6 letture, 82 milioni di emendamenti, 126 modifiche. È difficile, giustamente, in base all'articolo 138 della Costituzione, cambiarla. Noi ci siamo riusciti dopo 40 anni a cambiare la seconda parte, non i principi. Allora, sono state 40 anni di occasioni mancate di superamento del bicameralismo perfetto e paritario. A mio giudizio oggi ci siamo riusciti, con piacere più o meno, ma oggi finalmente è una... Allora, tu dici sostanzialmente la seconda parte, chiariamo, partiamo da questo presupposto qui, vediamo se siamo d'accordo. Arturo, la Costituzione va modificata e però dice Leonardo, noi siamo riusciti a fare questo, a questo siamo riusciti a modificare, adesso sarebbe un peccato tornare indietro. Ecco, allora lo chiedo a te, ma la stessa domanda chiederò a Leonardo, farò a Leonardo e quindi chiederò di rispondere. Ovviamente tu sarai d'accordo che non è il migliore dei cambiamenti e quindi vale la pena rinunciarvi. Ma intanto vorrei informare Leonardo pagatamente che in 69 anni, siamo attenti sui numeri perché il Presidente del Consiglio 2 anni fa pensava che la Costituzione fosse entrata in vigore 70 anni prima. Beh, ragazzo, è giovane. In 69 anni ci sono state 43 modifiche della seconda parte della Costituzione, 19 nel corso degli ultimi 20 anni. Alcune delle quali anche particolarmente rilevanti nel 2001, ma anche nel 2005, nel 2012, caro Leonardo, riforma dell'articolo 81 sul pareggio di bilancio. Quindi andiamo sul merito, la seconda parte della Costituzione è cambiata, non ha fatto cambiato, particolarmente assolutamente. Ed è cambiata anche in maniera rilevante, su materie serie. Secondo, non è vero che sono 504 giorni, i numeri parlano chiaro. Quanti sono? Una carta. Quanti sono? Quanti sono? C'è una carta. E dici quanti sono? Sono gli atti normativi dall'inizio della legislatura, 14 novembre 2016, la legislatura dove siamo stati eletti, io e Leonardo, è entrata in vigore nel marzo del 2013. La Camera ha approvato 267 atti normativi a bicameralismo perfetto. Quindi si può fare. In essere, 84 decreti legge, 169 decreti legislativi, 25 regolamenti di delegificazione. Ora, insomma, non giriamoci troppo attorno. Il tema è la volontà politica. Per alcune leggi, quando hanno deciso di farle, ci hanno messo 15 giorni. Quando hanno fatto la legge Fornero, ci hanno messo 15 giorni. Guarda che quando hanno fatto la buona scuola, la buona scuola, noi ce la ricordiamo, ci hanno messo poco. Allora, e quindi è un falso rifare. Infine, voto a data certa. Caro Leonardo, questo sarebbe vero, se aveste deciso di eliminare i decreti legge. I decreti legge restano, addirittura c'è la possibilità di una proroga, se il Presidente della Repubblica lo vuole, di ulteriori 30 giorni, e ti aggiungo anche che questo, più il voto a data certa, che non è un rafforzamento del Parlamento, leggetevelo l'articolo 72 in cui sta scritto, in quell'articolo sta scritto: se si ritiene essenziale al fine dell'applicazione del programma di governo, entro 5 giorni quel provvedimento entra nell'agenda. Attualmente è la conferenza dei capigruppo che fa l'agenda del Parlamento, e governo e capigruppo sono parti, non c'è una parte sopra l'altra. Quindi, così dici tu, cambiamo a questo punto qui col governo. Allora Leonardo, Arturo dice delle cose, però ripartiamo dalla domanda fatta da Arturo: ma se questa è la riforma migliore possibile, però non è una grande cosa, forse non era il caso di andare avanti, oppure secondo te è davvero un passo in avanti nonostante le cose che diceva Arturo? Cioè, innanzitutto la media delle leggi del Parlamento sono 526 giorni e c'è la tabella. Non si può fare la media con vabbè, ma noi meglio, ma ce l'andiamo a guardare. Non si può fare la media, questo non si può fare la media. Ce l'andiamo a guardare, dai. La legge del Parlamento, poi magari mandiamo a tutti gli amici che sono qui le tabelle. È la distinzione tra la legge del Parlamento e dei decreti. Non puoi fare la media con i 67 leggi e 84 decreti. Non puoi fare la media con i decreti. Non si può fare la media. Vabbè, ma non è questo, scusatemi, però non è questo il punto. Ritorniamo al punto centrale. Era la migliore riforma possibile, ma è venuta bene tanto da volerla approvare, Leonardo. Arriviamo al punto centrale. Secondo me sì, vale ovviamente la pena approvare la riforma. anche per un valore politico, al di là degli aspetti procedurali, legislativi, che rende a mio giudizio questa procedura più veloce l'approvazione di alcune leggi rilevanti, ma certo c'è il problema politico, la volontà politica, come dice Arturo, ma nel nostro paese, a fronte di una volontà politica scadente, di un personale politico scadente, di una frammentazione scadente, ci metti pure delle istituzioni scadenti, la frittata è fatta. Allora sì, mentre aspettiamo che la politica migliori, mentre aspettiamo che il personale politico nel nostro paese migliori, aggiustiamo almeno l'ingranaggio, la macchina dentro la quale la politica ci va. Se confondiamo le cose, commettiamo un grave errore. Ma veniamo a un punto più squisitamente politico. Noi abbiamo due camere che entrambe danno la fiducia al governo, che vengono elette con due sistemi elettorali differenti. Questo cosa ha comportato nella storia del nostro paese? Ha comportato che fin quando quel sistema politico era stabile, tu avevi PC e Partito Socialista, con la convention ad excludendum nei confronti del Partito Comunista, avevi un sistema stabile, perché la Democrazia Cristiana ha governato questo paese per 50 anni e ha avuto sempre la maggioranza da una parte e dall'altra, soprattutto attraverso la convention ad excludendum. Cosa è successo? Il giocattolo si è rotto in maniera evidente inizio anni 90, con la caduta delle ideologie, con Tangentopoli, hanno avuto una frammentazione di partiti tali. E che cosa è successo? Che abbiamo sempre avuto, tranne una volta, maggioranze diverse alla Camera e al Senato. Hanno avuto una maggioranza evidente alla Camera e ha avuto altre maggioranze al Senato. Questo sistema ha creato un sistema paese ingovernabile. Ma scusate, vi ricordate che noi eravamo appesi al voto di Turigliatto, eravamo appesi al voto di Rita Levi Montalcini, senatrice a vita che doveva andare al Senato, eravamo appesi al voto di Ciampi, e sono estimabili, eravamo appesi al voto di Mastella che poi l'ha fatto cadere il governo. Abbiamo avuto maggioranza di questo, quello di Verdini. Sì, grazie a te, grazie a questo, grazie a te, perché dovevamo andare allora alle elezioni, ci siamo presentati insieme, stavamo insieme e ora stiamo. Vabbè, avete litigato. Sì, grazie a te, ci hai costretto a parlare con Verdini, io ho molto più piacere di parlare con te, molto di più. Vabbè, dai, voi fate pace fuori, però c'entriamo il Partito Democratico. Vi do una notizia: il Partito Democratico non aveva la maggioranza al Senato, o si è andata di nuovo a votare, oppure si prova a fare un'intesa. Si è spaccata Forza Italia e ho fatto l'intesa con l'MCP. Pensate che amiamo così tanto questa intesa? Per chi conosce la mia storia può pensare che sospetto magari avevo più dialogare con Arturo Scotto, ma tant'è, c'è stato e capiterà. Guardate che capiterà, perché persino se vince Grillo, con chi si allea? Oppure se vince Arturo Scotto, sempre, piglia la maggioranza relativa nel nostro paese, il 33%, glielo auguro. Incredibile. Con chi si allea? Se ci facesse sapere con chi si allea, perché il primo poi il paese lo devi governare, soprattutto se hai una legge elettorale, il porcellum, non quella che abbiamo fatto, perché noi dobbiamo sempre sapere da dove siamo partiti. A Napoli c'è il caso. Dove siamo partiti? Abbiamo delle interferenze dal pubblico, però. Dove siamo partiti? Dal discorso di Giorgio Napolitano alla Camera, il quale ha detto: io accetto di rifare il Presidente della Repubblica, banalizzo, a due condizioni: se cambiate la legge elettorale e fare le riforme istituzionali. Noi abbiamo cambiato la legge elettorale e abbiamo fatto la riforma istituzionale. Può piacere o no, ma in 2 anni e mezzo abbiamo fatto questo. Poi possiamo discutere dell'Italia. Preferiamo qualcuno di qua in sala che giustamente non piace, non piace l'Italia. Non piace, piace il proporzionale, cioè piace le alleanze. Quindi non il premio di maggioranza con l'Italicum, ma immagino che piaccia il proporzionale. Il proporzionale significa fare alleanze trasversali. Leonardo, fermati un attimo. Leonardo, fermati un attimo. Allora, chiedo ad Arturo Scotto. Arturo, ma Leonardo tocca un punto che è di grande interesse all'interno di questa questione. il punto è sostanzialmente: ammesso che l'Italicum vada via, l'Italicum è l'unico sistema elettorale che consente in un tripolarismo di avere un governo con una maggioranza stabile con il 30% dei voti, perché questo è il concetto antidemocratico, ma non lo so. Il punto è, Arturo, se dovesse venire fuori un partito che vince le elezioni con il 50% più uno, non vince nessuno di quelli che è in Parlamento, che non ci sarebbe premio, bisognerebbe costruire delle alleanze. E l'alleanza a sinistra sarebbe quella del Partito Democratico con Sinistra e Libertà, Sinistra Italiana, ma attenzione, forse quel nuovo centrodestra sarebbe necessario per governare. Ecco, tu ci staresti a una cosa del genere? Ma io intanto mi voglio scusare con Leonardo perché l'ho interrotto e... Ti ha già perdonato. La passione politica, diciamo. Sei tornato giovane, dai. A fare degli errori, quindi mi scuso. Allora, siccome non la voglio buttare in politica, ma voglio stare nel merito della riforma. No, io la sto buttando proprio in politica, perché la determinazione al voto passa tanto per questa cosa qui. Allora, intanto noi stiamo parlando di sistemi politici. Quando parliamo di sistemi politici vanno costruiti non sulla base della congiuntura politica del momento, ma sulla base di una proiezione che sta almeno a 10, 15, 20 anni. Ho l'impressione che l'Italicum sia un vestito che Matteo Renzi ha immaginato di cucire sul suo 40% alle europee, che era, come sappiamo, un amichevole dentro la partita politica più complicata, e poi ha scoperto che quel vestito probabilmente lo indossa qualcun altro. Quindi quando si fanno le leggi elettorali bisognerebbe sempre pensarsi in minoranza, mai pensarsi sempre in maggioranza, perché prima o poi in minoranza ci finisci anche tu. E quella legge elettorale che dà alla minoranza più grande il 55% dei seggi parlamentari non esiste in nessuna repubblica democratica al mondo. Perfetto. Eccetto, faccio un esempio, l'Ungheria, dove premiato un solo partito per effetto di una legge elettorale ipermaggioritaria, Malta e San Marino, ma parliamo di un quartiere sono di paesini, Napoli, dai. E la Grecia, che aveva un premio di non parliamo della Grecia, ma aveva un premio di maggioranza più limitato rispetto a questo, cioè se tu arrivi al 40% hai la possibilità, hai il diritto ad avere un bonus di 50 seggi fissi e quindi forse arrivi alla maggioranza. Se non ci arrivi sei costretto a fare alleanze. Questa ossessione devo conoscere la sera delle elezioni chi ha vinto è un'ossessione italiana, è una cosa da Facebook italiana, neanche negli Stati Uniti d'America. Difatti non accade. Però Arturo, non hai risposto alla domanda centrale. Tu ci stai a fare un'alleanza con allora, il nuovo centrodestra? Io vengo da una scuola dove prima degli schieramenti contano i programmi. Per quello che mi riguarda ho sottoscritto un programma con l'Italia bene comune, che aveva scritto alcune cose molto chiare sul lavoro, sulla scuola, sull'economia. Mi pare di capire che il programma del Partito Democratico oggi non è quello, sia un altro. Se cambia il quadro, io sono sempre per fare le alleanze, io voglio ricostruire il centro-sinistra, non voglio essere il partito contadino alleato col partito razzo. Oh, allora, Leonardo, il punto è, dice Arturo, l'Italia Bene Comune aveva un programma e purtroppo il Partito Democratico si è spostato a destra. Questo è il concetto sul quale noi ci andiamo in qualche modo a confrontare. Guarda, vi siete spostati a destra, dai. Allora, io ti voglio bene davvero. No, ma questo mi fa piacere, però non è. Abbiamo fatto l'università insieme e so la tua passione per la politica. Però qui stiamo parlando della riforma costituzionale, dobbiamo provare a intrecciare i temi politici con i temi della riforma costituzionale, che sono allora, quelli che fanno votare, però scusa, è il bicameralismo, l'altro è la riforma del titolo V rispetto a una vergogna fatta un errore gravissimo fatto nel 2001 sull'onda di una questione settentrionale, vi ricorderete, c'era la questione settentrionale, non c'era la questione meridionale, e sono stati fatti dei veri disastri. Un numero su questi disastri: mentre in Germania nell'arco di 12 anni i conflitti tra i Land e il Bundestag sono stati 40, i conflitti di competenze sulle materie, in Italia sono stati nello stesso periodo 1600, cioè lo Stato ha litigato 1600 volte con le regioni su determinate materie, litigando sul fatto di chi fosse la competenza dell'uno e dell'altro. E sapete che gli effetti di questi li paghiamo sono noi. Drammatici da un punto di vista economico. Ma ritorniamo alla vicenda politica. Il famoso combinato disposto tra la legge elettorale e la riforma costituzionale. Detto che questi sono due pilastri che non c'entrano niente con la legge elettorale, bicameralismo e riforma del titolo quinto non c'entrano niente, e se si votano secondo me perché non buon servizio vogliamo il tenere, facciamo tanto effetto. Ma vediamo di capire la critica. Dice, ma voi mettete insieme queste due cose e esce un dittatore. Che è questo il combinato disposto. Li mettiamo assieme. E succede un guaio. Non succede. Perché vi potete leggere tutto e non trovate, mi dispiace, anche nel vostro volantino. Uno, il mio giudizio è un impreciso. È andato via Schiavella. Premesso che avete detto che è disponibile a cambiare e a discutere. Ha detto stai seguendo. Non fare l'intemperante, Scotto. Vabbè, se temete non vi dare evidenze, non dovete chiedere. Allora, sì, però, scusate, però. Io non ho mai pronunciato Renzi, perché altrimenti qui penso che immagino, certo, essendo certo, venuto certo, qui, immagino che si certo saltano gli anni e sto facendo uno sforzo enorme sul merito della questione. Togliamoci dire di testa Renzi, lasciamo perdere se è simpatico o antipatico, lasciamo perdere se ha fatto bene o ha fatto male. Sto provando, al netto dell'odio che qualcuno di voi, e il politico non si dovrebbe mai avere, l'antipatia, il giudizio negativo politico che siamo contro di Renzi, proviamo a stare al merito. Se si vince, il combinato disposto significa che chi vince si può prendere. E questa è la si può prendere il Presidente della Repubblica, benissimo. Sapete oggi come viene eletto oggi la Costituzione vigente il Presidente della Repubblica? Ce lo sappiamo. Settimo scrutinio. Lo sappiamo. Settimo, siccome lo sappiamo quant'è. Settimo scrutinio, che maggioranza ci vuole? No, no, non interrogare il dirigente scolastico. Il componente. Ci vuole la maggioranza assoluta. Oggi, e noi ci arriviamo. Oggi invece non è più sufficiente la maggioranza assoluta. Dal settimo scrutinio in poi è necessario il 60% dei presenti. Questa è l'obiezione che viene fatta, perché ovviamente oggi io vi dico che è molto più difficile eleggere il Presidente della Repubblica, perché ovviamente quel giorno che si vota il Presidente della Repubblica, io e Arturo che siamo parlamentari ci scordiamo di andare, no? Perché è un giorno qualsiasi. È un giorno qualsiasi e quindi non andiamo. Noi andremo in aula come è successo. Perché quando si elegge il Presidente della Repubblica i deputati stanno sempre lì ed è carte alla mano il 99,8% di presenze quando si elegge il Presidente della Repubblica, perché stai eleggendo il Presidente della Repubblica, non l'amministratore di condominio, quindi hai il 99,8% di presenze. Perché si dice di presenti e non dei votanti? Perché c'è la possibilità, qualora non ci sia l'accordo, di una minoranza che non condivide col Presidente della Repubblica e se ne esce dall'aula. Oggi qual è il vero pericolo di questa norma? Per cui alcuno lo sa, io ero leggermente perplesso. Il pericolo di questa norma è che un'intera maggioranza, chiunque dica, guardate, chiunque dica, chiunque dice, rischia di rimanere in ostaggio dell'opposizione. In che senso? Se passa l'Italicum e Renzi non vuole fare le modifiche o non si trova l'accordo per fare le modifiche, quindi il peggio del peggio della parte di voi, c'è l'Italicum, vince Grillo, prende 340 deputati, perché per arrivare al 54% tu arrivi a 340 deputati. Per eleggere il Presidente della Repubblica non ce la fa, non ce la può fare, perché deve arrivare al 60%. Che cosa succede? Il Grillo viene, va dalla minoranza e dice: ci vogliamo mettere d'accordo sul tizio? Poi la minoranza dice sempre no. Se si blocca il sistema così, Grillo non vorrebbe mai eleggere il Presidente della Repubblica. E si dà la possibilità, dico Grillo per fare un esempio, non so se a qualcuno piace, a me la vedo come la cosa più lontana da me. I giudici della Corte Costituzionale è la stessa cosa. Ci vogliono i tre quinti per eleggere. Ma quindi è pessima questa riforma? È pessima questa riforma. Se vuoi la mia personale opinione sulle modalità di elezione del Presidente della Repubblica, si è concesso troppo, ad esempio la minoranza interna del PD, che voleva che si arrivasse, credo forse quindi voti bene, che si doveva aumentare la maggioranza. Persino dopo il settimo scrutinio bisognava avere il 60%. Io mi alzai il mio e poi mi sguardo, secondo me è rischioso, perché rischi che l'intera maggioranza, qualora fossero d'accordo, i 340 deputati, abbiamo visto con Prodi che non sempre un partito è d'accordo, si va là e si vota in maniera diversa. Quindi ammesso e non concesso che un intero partito che prende 340 deputati sono tutti e 340 d'accordo, non è sufficiente ad avere troppo democratico della Repubblica, perché devi andare a parlare con qualcun altro. Con la minoranza. Quindi secondo me quindi l'accusa è messa una superficialità, un eccesso di democraticità. No, di accordo. Come fare? Rischi di rimanere ostaggio di una minoranza. Quindi io farei la critica opposta, non la critica che chi vince si piglia tutto. E chi vince non c'ha forza di niente, perché deve per forza di cose fare l'accordo con la minoranza, sia sul Presidente della Repubblica che con i giudici costituzionali. Quindi diciamoci la verità, sta cosa che è autoritario, che si prende tutto, è una vera e propria. È poco credibile. Allora, 5 minuti e siamo per concludere. E però ve la faccio io la vera obiezione, ma più che un'obiezione è fateci capire, con la riforma del titolo quinto fatta dal centrosinistra si andò verso il decentramento delle funzioni delle regioni, e penso che chiunque abbia avuto a che fare con la sanità in qualsiasi regione, in particolar modo in Campania, si sia accorto di quale sia stato l'effetto. Oggi la riforma della riforma punta a un accentramento di tutto. Allora, Arturo, siamo il modello centralista, quello che toglie competenze alle regioni e le risposta verso il centro, era una cosa che Selli in qualche modo diceva dovesse stare nell'agenda di governo. Secondo te è un po' troppo quello che prevede questa riforma, oppure è quella la strada del decentramento? Bisognerebbe andare avanti piuttosto che su questa riforma che torna indietro. Intanto noi siamo dentro un paradosso: da un lato si dice faccio il senato dell'autonomia, che però in realtà non c'entra nulla con il vero senato dell'autonomia, che è il Bundesrat, perché il Bundesrat come è formato? È formato che i membri di quel senato, di quella camera bassa, sono di espressione dei governi regionali, hanno un vincolo di mandato e hanno un voto di blocco. Cioè non possono, se io sono della bassa Sassonia e tu sei della Baviera, se la bassa Sassonia su quel singolo provvedimento dice no e la Baviera dice sì, non è che ci può essere un'articolazione. I deputati che saranno nominati dal ceto politico all'interno di quel Senato si andranno a esprimere i singoli gruppi parlamentari, non è che verranno, saranno espressione del territorio. Quel Senato avrà diverse funzioni chiare e bicamerali su 22, e sul resto potranno richiamare pressoché tutte le leggi, basterà un terzo di senato, e si occuperanno di tutto. Nel frattempo si fa questa operazione sul titolo quinto. Io l'ho detto prima nell'intervento, la legislazione concorrente ha determinato problemi di interpretazione, ricorsi, tuttavia non prendiamoci in giro. Il vero piatto ricco di questo titolo quinto che cambia è la clausola di supremazia. Quella scavalca tutte le stanze dei territori, delle regioni, dei comuni, delle autonomie. E questo significa che se voglio mettere una bella trivella al centro di Piazza Garibaldi, con la clausola di supremazia, la posso. Se tu che sei presidente della regione sei contrario, ti freghi, perché il Parlamento, se approva questa proposta di governo, a partita è chiusa, è con 340 possibili. Anche l'albero sul lungomare. Allora, Leonardo, la clausola di supremazia, il decentramento o l'accentramento? Al di là della trivella di Piazza Plebiscito, che è complicata, no, la Garibaldi ci trova niente. Allora, la Garibaldi si può fare. Piazza Plebiscito è molto più salvaguardata dal punto di vista architettonico. Piazza Garibaldi è un po' più moderna, quindi ci potremmo pensare. Al di là delle battute, che cosa cambia nella sostanza? Poi ci possono essere dei tecnicismi e li possiamo anche affrontare. Ma che cosa cambia nella sostanza del titolo quinto, veramente? Cambiano due cose. La prima è che mentre oggi c'è la legislazione concorrente, su una determinata materia può decidere lo Stato e le regioni insieme. Noi togliamo di mezzo la legislazione concorrente, non c'è più. Non c'è più la legislazione concorrente, quella che ha fatto 1600 ricorsi. Uno dei quali, ad esempio, in Puglia sul gasdotto c'è stato un conflitto tra la regione Puglia e lo Stato, si è bloccata l'opera, c'è chi dice bene che si è bloccata, c'è chi dice no, abbiamo perso un'occasione. In ogni caso si è bloccata l'opera perché c'è stato un conflitto tra lo Stato e le regioni. Questo è il primo punto. Togliamo di mezzo la legislazione concorrente. Scriviamo quello che è di competenza dello Stato e quello che è di competenza delle regioni. Quindi facciamo un po' di chiarezza. La seconda cosa, iniziamo a porre dei rimedi rispetto a dei disastri che ha portato la riforma del 2011. Uno su tutti, a proposito di Trieste. Ma vi sembra mai possibile che nel nostro paese la politica energetica la fa la regione Calabria, la fa la regione Puglia, Basilicata, la fa il Trentino Alto Adige? Sì, oggi la politica energetica è affidata ad ogni singola regione. Noi abbiamo bisogno invece di un paese che faccia la sua politica energetica e non c'è nemmeno, come dire, non è nemmeno sufficiente. Oggi, come Arturo ben sa, sono i continenti che fanno la politica energetica, l'Europa dovrebbe fare la sua politica energetica rispetto all'Unione Sovietica, rispetto al Medio Oriente, rispetto all'Africa, agli Stati Uniti. Oggi abbiamo che la Calabria e la Campania e la Puglia e la Basilicata possono avere la loro politica energetica. No, si accetta. E questo è giusto, ma è giusto in termini di no, che voi andate a fare oli, andate per dei pannelli, andate per dei. Ma come va un paese dove ognuno fa la sua politica energetica? Un altro esempio, turismo. Il turismo è affidato completamente alle regioni. E al netto delle clientele, delle rubrie, dello spettro di soldi, non abbiamo una politica di marketing turistico nazionale di rilievo, perché le risorse sono in mille milioni, perché ogni regione ha la sua politica del marketing turistico. Noi abbiamo delle fiere dove vediamo pubblicizzato Matera e le Cinque Terre e Pompei e non vediamo mai pubblicizzata l'Italia. Ma avete mai visto una pubblicità su Wenzhou? O vedete la pubblicità sulla Cina? Avete mai visto una pubblicità sulla Normandia? O vedete la pubblicità sulla Francia? Sulla Spagna? Coordinate, fatte in un certo modo. Allora, non è l'accentramento dei poteri contro le autonomie, è una visione sbagliata, è una razionalizzazione dei poteri e delle competenze tra Stato e Regione, evitando la confusione che si è creata fino adesso. Vale lo stesso rispetto al commercio estero e al sostegno delle imprese del commercio estero e magari alla sanità. Allora, questo è uno dei grandi. Allora, noi abbiamo più o meno inquadrato i temi, abbiamo più o meno, come dire, sentito il sì e il no a confronto, come ragionano, in che termini pensano che le cose siano diverse. E dico subito, la sensazione è stata che ricomporre la sinistra attorno a questi temi nei prossimi anni sarà assai complicato. Intanto io devo ringraziare i nostri due ospiti che ci hanno permesso di avere un quadro sulla base del quale adesso continuiamo, se ci sono delle domande, se qualcuno vuole interrogare i nostri parlamentari. Però prima di tutto io chiedo, 30 secondi ad Arturo Scotto, 30 secondi a Leonardo Impegno, ditemi in poche parole, 30 secondi significa 30 secondi, perché io dovrei votare no, perché dovrei votare sì? 30 secondi. Cioè, se tu la gente, quanto tempo vuoi tenerla ferma? Quanto tempo vuoi tenerla ferma? Io voto no, perché non voglio passare da un bicameralismo paritario che ha i suoi difetti a un bicameralismo confuso che rischia di produrre paralisi. Voto no perché le costituzioni non sono di governo, ma sono del popolo. Voto no perché la Costituzione è stata scritta con il sangue di milioni di persone che hanno lottato, e questa Costituzione invece è scritta con la saliva dei cortigiani. Ok, allora apprezzato questo io voto no. Leonardo, convincimi a votare per il sì. Ma io voto sì, perché quel sangue ha previsto la modifica della Carta Costituzionale. Quel sangue si è battuto per prevedere l'articolo 138 che diceva a coloro i quali sarebbero venuti dopo: guardate avanti, non guardate indietro. La grande bellezza della Costituzione nostra e della prima parte è che guardava avanti, perché nel 1948 c'era meno eguaglianza di quanto ce n'è oggi, nel 1948 c'era meno libertà di quanto ce n'è oggi, guardavano avanti. E talmente mi guardavano avanti che dicevano: guardate, cambiatela e rendetela più moderna, più al passo con i tempi. Voto sì perché finalmente riusciamo a superare un bicameralismo perfetto e paritario che forse poteva avere un senso 20, 30, 40 anni fa e che oggi non ha nessun senso. Voto sì perché rendere questo paese più semplice e più moderno. Decido di votare sì, finalmente. Perché se qualcosa non va, potrà essere cambiata. Voto sì, perché ho la preoccupazione profonda che il vento e l'onda nera che sta attraversando tutti i paesi, dalla Francia, all'Inghilterra, agli Stati Uniti, possa venire pure qua. E io la valutazione politica la devo fare, l'ultima che faccio, perché fino adesso ho parlato di merito. Però giustamente hai ragione Gianfranco. Chi ha la nostra tradizione, è quello che credo, voi potete fischiare e mandare a casa, ma chi ha la nostra tradizione politica deve fare questa valutazione politica. E quindi il mio invito a tutti quanti voi a votare sì per rendere questo paese. Ti sei preso 45 secondi, dandone 15 ad Arturo che recupera. A tu, però, se sono più di 15 non recuperi più. L'onda nera che cresce in Europa c'era già prima di questo referendum, e nel corso degli ultimi due anni il PD e il centrosinistra hanno perso le elezioni al netto della riforma costituzionale. Vorrei evitare di consegnare l'onda nera troppo potere. Allora, noi sperando che non ci siano onde nere, ci salutiamo e ringrazio tutti per la serata.